Ti ripensare il mio amico dentro, l'amore vero esiste però io non mi accontento. Volevo avere tutto, tengo il mio mondo tangibile. Bruciami da dentro come se stessi bevendo un combustibile. Amami davvero senza un limite, troia vuole amore perché non le basta il crimine. Finché sputo sangue un bozzolo tocca il terreno, sputo sulla traccia e non sei quanto il frere pieno. E me sei di Ciogaran, quando passa al distretto ho già comprato la bara che poi uso per letto. Fraccio un peso sulla schiena che mi pesa, mi sta portando per terra. Io mi rialzo, io non mollo, io rimbalzo, non ci torno. Famo lì che la formica fa la troia con le amiche. Quante volte te l'ho detto, tengo il telefono spento. Se mi chiami non ci sono, lasciami in segreteria. Due dita nella fica, facca di ligerezia. Odio i preti, odio i don, quanto insegna a stare solo. Che a Dio ci credo in tua mamma, ci parlo se son morto. Se Dio cura il male perché nel mondo c'è il male. Se Dio ti sta aiutando, lui non sta aiutando me. Cadono parole come muri di Berlino. La strada intanto attacca, ti fa zoom col mirino. Brucio tappe su tappe, me ne fotto degli altri. Finché avrò sti contanti, rifiuto altri contratti. Sono un giovane adulto, dove il flow conta tutto. Metti la ci sbagliati, tanto c'ho sempre più sugo. Se vuoi facciamo un giro, ti porto dentro il mio mondo. Ti regalo il mio cuore, lo bruci con l'accendino. Se sono freddo un po' è vero, se sento freddo poi bevo. Fra mischio vodka la tonica, come è volato il tempo. Prima gioivo per nulla, ma adesso neanche un sorriso. La droga ti prende tutto, a me ha tolto un amico. Sono un torto e lo scrivo, brindo bicchiere vino. Voglio calice, geni, prendo insieme al mio nemico. Non so usare la guancia, però mi giro di spalle. Ho le ali coi coltelli, dopo impara a volare. Ma ogni barra, ogni pezzo già descritto, anche